del tutto inediti, del tutto da esplorare. Quindi siamo arrivati un pochino avanti con le puntate. Volevo un attimo dare una piccola punto della situazione. Questa è la puntata numero 30, quindi siamo arrivati appunto alla 30ª. La volta scorsa abbiamo visto, si è parlato di giustizia divina, si è parlato del fatto che non è possibile la glorificazione dell'uomo prima di aver soddisfatto alla giustizia divina. Questo è un tema ricorrente. Tenera Amata decisamente sfata e smonta il mito del dio Bonaccione, ecco, assolutamente, pur mostrando in tutta la sua opera come l'essenza divina, che poi è mossa, come sappiamo, dalla sua volontà, sia l'amore. Ma è un amore che non diventa mai quella che qualcuno chiama carità pelosa o, come dire, buonismo che accetta di farsi irridere, prendere in giro o calpestare impunemente dalle povere creature quali noi siamo, insomma, no? Ecco, quindi abbiamo visto che quanti santi parlavano, anche il buon Padre Pio, quando uno la faceva grossa, diceva: ah, questa la paghi cara. Ecco, non è che parlavano tanto per dire, oppure per metafore o per iperboli. Quindi la giustizia di Dio esiste. Comunque, oggi spiega poi anche tutto quanto il senso del castigo, della purificazione, eccetera, no? Allora, e ci siamo lasciati la volta scorsa, abbiamo fatto la conclusione, ecco, alla serie TV con suspense, perché l'ultimo capoverso che abbiamo letto era appunto, dice: a riguardo sto chiamando un tuo amico d'infanzia, Maurizio, che attualmente è un beato in cielo perché parli con te. Oggi compare un nuovo personaggio, no? Ecco, dopo che Tenera Amata appunto aveva spiegato, dice che di conseguenza tutti quelli che hanno accumulato nel corso della vita terrena una montagna di scorie, ecco, di spazi-tempi sballati e di cose da riparare che non hanno fatto, concludeva così, diceva: hanno bisogno di subire il giusto castigo per compensare i loro peccati. Quindi, ho già detto, diffidate da non pochi, anche tra i ministri, che dicono: ah, Dio non castiga. Ma questo se lo sono inventati adesso nella congerie di invenzioni e stranezze che pullulano nei nostri tempi, insomma. Ma la Chiesa non ha mai creduto, non ha mai insegnato cose di questo genere, quindi hanno bisogno di subire il giusto castigo per compensare i loro peccati, ormai perdonati riguardo alla colpa e alla pena eterna. Hanno bisogno di rettificare la loro indifferenza terrena verso le cose del cielo e di trovare il proprio posto preciso nella patria. Hanno bisogno di imparare le abitudini celesti e di fare al modo dell'aldilà le restituzioni di ciò che hanno derubato, non solo in soldi, ma anche in tante altre cose. Onore, stima, rispetto, buona fama, eccetera. No? Vabbè. A riguardo sto chiamando un tuo amico defunto, Maurizio, che attualmente è un beato in cielo perché parli con te. E andiamo a conoscere Maurizio. Infatti, all'improvviso si avvicina a noi Maurizio, un mio compagno della scuola elementare. Si presentò nella sua fase biologica di bambino e non notai in lui nessun segno di glorificazione. A quel tempo era un ragazzino della mia età, più alto e più robusto di me, e che si burlava di me continuamente, quindi lo sentivo come un calcio allo stomaco. Ignoravo che le antipatie sono dovute all'opacità dei vincoli di amicizia, programmati in anticipo dal Creatore per unificare i suoi figli adottivi umani. Meravigliosi vincoli reciproci di attattiva e complementarietà che a volte quasi si cancellano in questa vita a causa del peccato. Ah, capito che sta dicendo, per esempio, qui? Che la condizione di disastrata, d'accordo, di viatori segnati dal peccato originale, dalla concupiscenza, dall'etare, da tutto quello che vogliamo, è capace addirittura di cancellare i vincoli di amicizia programmati in anticipo dal creatore, addirittura trasformarli in antipatie. Che brutta cosa che viviamo qui in questo mondo, eh? Ok, molto, molto dopo venni a sapere che l'origine del suo ridere non ero io, ma un birbesco tic nervoso che gli contraeva periodicamente i muscoli facciali sinistri, disegnandogli un insopportabile sorriso sarcastico. E siccome non mi potevo permettere di fare a pugni con lui apertamente, tramai un piccolo intrigo. Approfittandomi della maestra, feci in modo che a lui dessero la colpa di aver rubato una matita bicolore a cui teneva la maestra e che avevo preso io. Fu severamente castigato. Ed io mi burlai del suo ridere per un po' di tempo. Maurizio mi salutò abitualmente. No, scusate, Maurizio mi salutò amabilmente e incominciò a ridere, ma non con l'antico riso burlesco, ma con allegri e amichevoli risate. Perdonami Maurizio, ti prego, gli supplicai contrito. Ma sicuro, e non ti preoccupare per quello che accade nella scuola. Preoccupati invece del modo come dovrai soddisfarmi nella gloria eterna. Ma via, non soffrire, disse notando la mia agitazione. Io ti aiuterò nella patria. E scomparve, fine della visita di Maurizio, come era venuto. E qui Riccardo adesso, come dice, stringe un po', dicono a Roma. Dice, e adesso che devo fare, teneramata? Dissi con preoccupazione. Cerca di accrescere il tuo grado di gloria, che risponde. Ti ho già detto che se riesci ad essere cristiano migliore, godrai di più in cielo e accrescerai la felicità di tutti i tuoi fratelli in beatitudine. Nella patria brillano in tutto il loro fulgore i vincoli di attrattiva amorosa, di complementarietà, di amicizia, di simpatia, stabiliti dal Signore e dalla sua eternità assoluta, la sua, la nostra è creata, la sua è l'assoluta, fra tutti i beati e tra questi tutta la creazione. Tuttavia le conseguenze delle antipatie non vinte su questa terra, attenzione a chi va a antipatie, a chi non si vince, sono la diminuzione di gloria nel cielo e la riparazione verso i glorificati offesi in questo mondo. Ecco quello che gli ha detto. L'Altissimo è molto amorevole, ma terribile nel fare giustizia. Allora, vi do questa notizia preoccupante. Se c'è qualcuno che ci sta, come si dice a Roma, chi vede il video adesso dopo, qui, ok, per chi ascolterà il podcast, ho mimato il gesto di mettere il dito alla gola, no? Quindi che te sta sul gargarozzo, perché questo si può dire, ci sono anche delle espressioni molto triviali per esprimere l'antipatia, che ovviamente non sono consone né a questo ambiente né tantomeno a bocca, lingua e stile sacerdotale. Ecco, se una persona ti sta fortemente antipatica, di quell'antipatia magari alimentata e motivata da qualche passioncella, consiglio vivissimo vincerla in questa terra, perché se non la vinci in questa terra, e guardate che oggi chi oggi acquisisce questa informazione, poi non ci avrà scuse davanti all'Altissimo, eh? Teneramata dice, se non vinci su questa terra, avrai una diminuzione di gloria nel cielo. Uno, vale la pena diminuire di gloria nel cielo per un'antipatia non vinta? E dovrai riparare, perché attenzione, quando una persona ci sta antipatica, proviamo un attimo a pensare al contrario. Cioè, tu ti accorgi quando stai antipatico a qualcuno? Vediamo. Te ne accorgi o no? Te ne accorgi. È bello avvertire l'antipatia del prossimo? Non è una cosa che ci fa soffrire, ci mette a disagio. A volte ci fa soffrire anche abbastanza, specialmente quando le antipatie, come dire, non nascono da persone che fondamentalmente sono distanti o estranee, no? Ma nascono da persone che sono a diverso titolo vicine. Pensate che io faccio il parroco, alle classiche antipatie no, intraparrocchiali, specialmente tra collaboratori del parroco. Perché c'è sempre, come dire, la tentazione neanche troppo nascosta del voler essere, come dire, il top, cioè il prediletto del parroco o la prediletta del parroco. Amici cari, e quindi con questo nascono e si possono alimentare antipatie del tutto gratuite. E dice, ma io che ci posso fare? Questo meno lo vedo e meglio sto, mi sta antipatico. Il nostro Signore dice attraverso di Ramata, non ti crogiolare su questa cosa, perché l'antipatia la devi vincere. Cioè noi non siamo degli automi che andiamo dietro necessariamente alle nostre passioni e passioncelle e non ci possiamo fare niente. Non è vero affatto che non ci possiamo fare niente. Tu l'antipatia la prendi e la vinci, combatti, non la secondi. Se una persona ti sta antipatica, questa è una norma tipica dell'ascetica, moltiplica le tue gentilezze. Capito? C'erano alcuni santi che capivano che, cioè, alcuni destinatari di comportamenti dei santi, che capivano che a quello gli stavano, che a quel santo gli stavano antipatici, perché quel santo li riempiva di gentilezze, di cose belle. Allora, tutte queste cose qua, se io sto antipatico, perché si vuole vincere, l'hanno fatto i santi. Altrimenti, ripeto, così focalizziamo e memorizziamo, diminuzione di gloria nel cielo e riparazione verso i glorificati offesi in questo mondo. E dopo lo spiega, riparazione in cielo e negli spazi e tempi dove tu hai esercitato tutti quanti gli atti di antipatia, quella persona li ha capiti e a causa della tua antipatia è stata male. Perché le persone stanno male a causa nostra, eh? Adesso sentiamo. Ti racconto un altro aneddoto mio, così comincerai a comprendere che, come piccola parte della gloria celeste che avrai meritato con le tue opere di amore e di carità sulla terra, il nostro Dio farà che nel preciso spazio-tempo del passato in cui hai vinto una tentazione, oppure hai sofferto qualche delusione, povertà, malattia o tribolazione, attenzione, per amore al nostro Signore, proprio lì, nell'atto della tua esistenza conservato nel perenne magazzino di tutti gli esseri o quinta dimensione, ormai sappiamo di che si tratta e non lo rispiego per la 500ª volta, tu riceva pienamente e obiettivamente la consolazione divina che hai desiderato, la lode che cancellerà l'offesa alla tua dignità di figlio adottivo del Creatore e il contraccambio amoroso o amichevole che ti ha rifiutato l'incomprensione umana sulla terra. E sentite quello che racconta. Appena sposata, passai col mio sposo una difficile situazione economiche. In una grave circostanza chiesi in prestito ad una nota strozzina della città di San Luis, chiesi un prestito. Le farò avere il denaro che chiede, mi avvisò l'usuraia, ma al 5% di interesse ogni mese. Ho il permesso del vescovo per prestare al 2%, ma siccome sono una povera vedova e ho molte spese, dico, va bene, rispose. Prende i gioielli di mia madre e mi dica dove devo firmare. Naturalmente non mi diede nessuna ricevuta. Passarono i mesi e potei pagare appena gli interessi. Quando mio marito trovò un lavoro migliore, andai per restituire il denaro. E questa gli dice: soltanto mi deve la metà di quello che le diedi, mi rispose, perché il resto è già stato pagato con la vendita che ho fatto dei suoi gioielli. Immaginai che non avrebbe potuto pagarmi e li misi all'asta. Capito? Lo sgomento mi prese dinanzi a una tale ingiustizia e siccome ero gravida del mio secondo figlio, svenni dal dispiacere. La usuraia mi tolse tutto il denaro e mi trascinò fino alla strada. Dopo che entrai nella beatitudine, il nostro Dio mi chiese di glorificare il mio corpo di quell'occasione. In casa della usuraia e precisamente negli spazi e tempi terreni nei quali fui offesa da lei. Già sai che questo si può fare facilmente nel cielo, perché l'organismo totale dell'essere umano continua vivo nell'ambito della quinta dimensione o eternità creata. Questo non dimentichiamolo mai. Questa è la grande rivelazione di questi scritti, che l'organismo totale dell'essere umano continua vivo nell'eternità creata. Quindi il nostro corpo, noi non lo abbandoniamo mai completamente. Abbandoniamo completamente solo il nostro cadavere. Questo poi ne riparlerà ancora prima della fine. Mi perdoni, signora, mi supplicava l'usuraio con quel profondo dolore e tristezza del purgatorio che io ben conoscevo perché ne ero appena uscita. Nostro Dio mi suggerì, oltre che a perdonarla, di prometterle la mia amicizia nel cielo. Feci così e alleviai in parte la terribile purificazione di colei che oggi è una mia amica nella beatitudine. Capito? Terribile purificazione per questa partaccia. E in paradiso diventata amica. Il Signore mi fece vedere che lui permise quella ingiuria che ricevetti, attenzione anche a questo, per aiutarmi a collaborare con i suoi disegni. Anche qui, amici cari, noi non possiamo, anche senza conoscere la divina volontà, perché questo basta anche l'ascetica classica, cioè quando succede qualcuno ci tratta male, partacce, calunnie, diffamazioni, oltraggi, disprezzi, noi non possiamo come discepoli di Gesù reagire da uomini, quindi prendercela e basta. È chiaro che è una cosa che ti fa male, una ferita ti arriva, ma oltre che a risentirti, tu devi fare l'atto di fede dove si dice, vabbè, ha sbagliato, tanto in questo mondo lo perdono, poi tanto, vedete che succede, i conti si faranno, però questa cosa Dio l'ha permessa per i suoi disegni. Vuole che in questo momento io soffra questa cosa, ma del resto questo lo dice già, lo insegnava già chiarissimamente Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Per questo che non ci serve nemmeno come dire, la divina volontà per chi la conosce per capire questa cosa, perché Sant'Alfonso diceva testualmente, ricorda che se una persona per esempio ti insulta, Dio non vuole che ti insulti, no, cioè, Dio proibisce di insultare il prossimo e per quell'insulto quella persona pagherà. Esattamente quello che leggiamo qui. Però Dio non vuole l'insulto, ma vuole che tu subisca quell'insulto. Tu dici, com'è possibile? Come fa? Fagli una telefonata alla Santissima Trinità. Queste sono cose che Dio sa fare e può fare. Quindi è il male permesso perché in quel momento e per i suoi disegni, se tu lo accetti, se tu lo offri, tu puoi fare tanto del bene con quel male lì. Lo diceva già Sant'Alfonso Maria dei Liguori 200 e passa, abbondanti, anni fa. Quindi, ora, e riprendo. La cosa più straordinaria è che in piena strada, nel luogo dove rinvenni dal mio svenimento e soffrii la tribolazione di aver perduto i gioielli e il denaro, quindi nel luogo stesso in cui si è ripresa dall'essere svenuta e si è accorta che non aveva più né i gioielli né i soldi perché gli aveva fregati tutti quanti l'usuraia, decine di glorificati e tra i più importanti domandavano al nostro Dio il privilegio di essere i primi a darmi soddisfazione al dilettevole modo celeste con la loro immensa gloria. Capito? Ha subito una cosa bruttissima e ingiusta. Quella chiede perdono, la supplica con quel profondo dolore e tristezza. In riparazione di questa cosa qui, quindi in compensazione, i glorificati, decine dei più alti, vanno a dilettarla al modo celeste come riparazione, con la loro immensa gloria. Capito? Vedete, l'Onnipotente scrive il destino volontario e libero dell'uomo con righe dritte che in questo mondo sembrano storte. Si deve cambiare un pochino il proverbio, perché il proverbio dice che Dio scrive dritto sulle righe storte. No, no, Dio scrive dritto, non sulle righe storte, ma su righe che in questo mondo sembrano storte, ma non lo sono. E invece adesso ti racconto un altro fatto mio nel quale io sono stata villana, la villana. In esso vedrai come determinate mancanze in questa vita, morali, di questa vita, si tramutano in gloria accidentale una volta raggiunto il perdono divino. Quando io ero giovane in questo mondo, una volta mi arrabbiai con un modesto camionista perché ebbe l'ardire di rivolgermi un complimento nel suo rustico gergo popolano. La mia vanità non mi lasciò vedere il sentimento pulito che il povero uomo mi esprimeva con parole rozze. Mi infuriai eccessivamente, lo umiliai pubblicamente e un educato signore lo prese a schiaffi per il delitto di aver offeso la mia orgogliosa e stupida vanità. Ebbene, trovai il mio presunto offensore, presunto perché in realtà non l'avevo offesa, vedete qua a essere permalosi, a offendersi anche quando non c'è niente che realmente era offesa, non capire che questo poveraccio era un grezzo, era, magari gli avrà detto una cosa in maniera grossolana, questa si offende, ma non gliel'ha detto per offendere, gliel'ha detto perché quello è un grezzo, era grezzo, che vogliamo, era rozzo. Cioè noi dobbiamo anche imparare a tarare le cose che ci vengono dette, ma da chi ci viene detto, no? Io sto in un ambiente, cioè, che su questo ti fa proprio scuola, no? Immaginate un ambiente di un paesino sperduto sui Monti Repini, dove a livello culturale io conosco un laureato in tutto il paese, uno. Uno. Ma adesso la laurea, insomma, non è. Ma c'è chi, adesso non voglio essere, non sa né parlare né stasse zitto, cioè se scrive qualche cosa su un messaggio o su un social, cioè fa gli orrori di ortografia. Capite? Allora, tu non puoi interpretare, prendere e leggere un comportamento, per esempio villano, che ti viene, no, da un ambiente del genere, come se ti venisse da un altro ambiente. Perché sempre villano ma che ti vuoi aspettare da questa base, come dire, povera da un punto di vista umano? Ti devi stupire se non fosse così. Cioè, questa intelligenza noi dobbiamo impararla, amici cari. Se venisse da un altro ambiente, che ne so, da un ambiente, come dire, umanamente più raffinato, più colto, che ne so, più. Allora sì che sarebbe un pochino più grave, no? Allora, ebbene, trovai il mio presunto offensore nel cielo e quale momento critico passai al modo dell'aldilà per avere la sua benevolenza? Ah, passato un momento critico per avere la sua benevolenza. È un grande beato che mi supera enormemente in dignità di gloria, un grezzo e un ignorante. Capite come essere grezzi o ignoranti davanti a Dio non conta proprio niente. Se l'anima è bella, se l'anima è santa, se le intenzioni sono rette, sono buone, puoi diventare un grande beato che mi supera enormemente in dignità di gloria. Soffrì nella patria come diminuzione di felicità, lei spiega, ma senza pena né dolore, nel comprendere che il suo pittoresco complimento non era mancanza di rispetto, ma soltanto volermi dire bella nel suo gergo di autista. Sarebbe meglio smascherare le permalosità in questa vita, secondo me. Sarebbe più saggio. Sapete che la permalosità è un termine femminile e generalmente affligge maggiormente le femminucce, anche se non mi è mancato di conoscere maschietti che sono più permalosi della peggiore delle femminucce permalose. Quindi, adesso, a dirla proprio tutta. Vabbè. Risponde Riccardo, neanche io mi sarei trattenuto dal farti un complimento. Sentite che risponde. Con la mia esperienza di adesso accetto le parole galanti con gusto e gratitudine, senza provare vanità né fastidio. Ah, guardate, figliuoli miei cari, ci sta da divertirsi a volte un pochino con noi stessi. Prova a pensarci. Come reagisci tu a una parola galante? L'accetti? Provi imbarazzo? Provi fastidio? Oppure diventi un palloncino gonfiato? Cadi nella vanità? È bene che ogni tanto ci facciamo qualche screening. Non facciamo sempre le confessioni sempre con le solite cose, no? Ma andare un po' ogni tanto a sfrugugliare quello che si muove dentro, no? Quello che si agita dentro. Andarci a vedere in tante situazioni, no? Le nostre reazioni. Questo è molto difficile, amici, amici miei cari, anche perché ci vuole sempre un pochino di tempo e anche un pochino di calma per fare queste operazioni un po' spirituali. Quindi siccome, almeno per quanto mi riguarda, tempo e la calma sono. Calma sì, ma il tempo. Ma calma non soltanto calma interiore, calma proprio intesa come tempo calmo, d'accordo? Senza orologio che qua. Senza che tra poco cominci la diretta. Beh, ecco. È importante però. Ma da quel contrattempo terreno il mio ammiratore risultò vincitore nel cielo perché si guadagnò il mio amore, rispetto e lode di gloria. Capite? Quindi, siccome l'aveva trattato male, quindi la ricompensa era che, appunto, per dovergli dare poi riparazione, è paradossalmente diventata amorevole, rispettosa. E gli ha tributato gloria nell'altra vita. Ed io pure, sebbene in proporzione minore, attenzione, già che non lascia di dispiacermi, naturalmente al modo celeste, il mio comportamento vanitoso sulla terra. Non basta di dispiacermi al modo celeste, vuol dire, ha detto prima, diminuzione di felicità, ma senza pena né dolore. Non lascia di dispiacermi il mio comportamento vanitoso mentre egli mi onora con la sua generosa amicizia. Cioè, quello gli sta dando una generosa amicizia e lei ripensa e dice: ma però con lui sono stato una gran cafone. Oh, ecco che poi concludisce. Pertanto, hai adesso in mano magnifiche occasioni di fare guadagni favolosi nella patria. Sfruttiamole, perché il motivo per cui stiamo a leggere queste cose è adesso ci abbiamo tempo. Dopo, vedete, dopo sono riparazioni, sono castighi, perché fammo mo, no? E acquistare moltissimi amici. Se impari a soffrire, scriviamocelo sul letto, le ingiustizie e le umiliazioni con paziente amore di carità. Fa molta attenzione nel tratto con i tuoi prossimi, il tratto. Volti vediamo. Di glorificazione non ne sappiamo, significa il tratto. Qui tante volte io ne ho parlato, ma ogni tanto dovrei sta, fa, fa, lo dico, fare esame di coscienza su me stesso. Il tratto vuol dire, da tratto viene trattare, no? Come trattiamo le persone. Il tratto non è solo quello che dici, ci sono persone, ma tutte quante, cioè noi comunichiamo al 90% senza le parole, la mimica, lo sguardo, abbassare un occhio, fare uno sguardo storto, cioè sono cose che non ci facciamo caso, nessuno ci fa caso. Io non voglio, non voglio ma, no, difficilmente ti capita di sentire. Quando che un presidente si accusa, a quello l'ho ferito con lo sguardo, gli ho dato una nocchiataccia e sicuramente l'ho mortificato. E non solo, sicuramente l'ho, ma volevo mortificarlo perché gli ho fatto quello sguardo perché lui lo notasse e si sentisse mortificato. Questo è peccato, amici miei, Ma è rarissimissimissimo che una coscienza giunga a questa lucidità. Il tratto, l'amorevolezza del tratto. Se una persona percepisce che tu stai scocciato, che la sopporti a malincuore, occasioni perse. Facciamo la canzoncina dei De San, no? Le opportunità che ho perso. Occasioni perse e guai che poi arriveranno, perché la giustizia del Signore oggi ci ha detto un'altra volta, la giustizia del Signore è rigorosa, quindi non è severa. L'Altissimo è molto amorevole, ma è terribile nel fare giustizia. L'ha detto a proposito delle antipatie non vinte. Quindi l'idea corretta di Dio è che è molto amorevole, ma è anche terribile nel fare giustizia. Una sola di queste due falsa la corretta idea di Dio. Perché lo trasforma in un bonaccione che non è, o in un giustiziere che non è. Tenera amata, permettimi una digressione, ma esistono emozioni e passioni nella celeste beatitudine? Domani, secondo voi? Se uno conoscesse un pochino di San Tommaso, risponderebbe, facciamo così, rispondo in latino, ne abbiamo già parlato durante questo ciclo di catechesi, credo. Grazia supponit naturam ac perficit, si dice in latino. Gloria supponit gratiam et naturam ac perficit. Traduco. La grazia, noi abbiamo tre livelli di vita. Il livello naturale, io sono un uomo. Il livello di grazia, io sono un cristiano, un battezzato. E il livello di gloria, io sono un beato. Non adesso, d'accordo? Ecco. Questi tre gradi non stanno, come dire, su piani. Faccio il video, faccio vedere in video. Uno sta qui e uno sta qui. No, stanno uno sta qui e l'altro sta qui. Cioè, si presuppongono l'uno con l'altro. Cioè, la grazia presuppone la natura e la porta a perfezione. Che significa? Significa che perché tu diventi santo è necessario che tutto il meglio di te sia elevato, quindi sublimato dalla grazia, e tutto il peggio di te, con l'aiuto della grazia, sia eliminato. E chi è che diventa beato? È l'uomo e la donna che hanno fatto questo lavoro di santificazione con la grazia che sviluppa e porta a perfezione i talenti naturali. Le doti che hai ti permette di smussare o eliminare i difetti e i vizi e poi arriva la gloria. Adesso, con questo background, rispondiamo alla domanda di, o meglio, sentiamo Tenera Amata che risponde alla domanda di Riccardo. Esiste un'emozione e passione nella beatitudine? La risposta a questo punto dovrebbe essere già chiara in base a quanto detto. Naturalmente, noi beati continuiamo ad essere umani nel cielo. Il beato non è che diventa un marziano, è un umano. Ce l'hai tu i sentimenti? Ce l'hai tu l'amore, l'odio, l'ira? Il desiderio? Sono passioni queste qui. E pensi che in cielo non ce l'hai? Il piacere? Il dolore? Tutte passioni queste sono, già dai tempi di Aristotele. Noi beati continuiamo ad essere umani nel cielo e continua a vivere il nostro organismo integrale. La glorificazione ci perfeziona, ma non cambia l'essenza della nostra natura. Chiaro, no? Quindi noi sentiamo le emozioni e le passioni di questo mondo. Attenzione, la sola differenza è che la nostra squisita e purissima sensibilità ce le fa vivere intensamente. Ovviamente sentiamo l'amore in tutta la sua pienezza. Sapevate che l'amore è una passione, anzitutto. Non è una passione soltanto che, secondo il gergo comune, no? Cioè, mi sono acceso, mi ha preso la passione per quel tizio. No, no, la passione è proprio in psicologia e antropologia classica, amore e odio sono le prime due passioni della parte concupiscibile della nostra anima inferiore, dice San Tommaso. Desiderio e concupiscenza sono quelle che vengono dopo. Desiderio e ripugnanza, scusate. Concupiscenza è sinonimo di desiderio. Quindi l'amore, la gioia è una passione. Perché? Perché tu provi. Che cosa significa passione? Passione è una reazione che tu provi dinanzi a qualche cosa, no? Tu senti l'amore quando? Quando compare un oggetto amato. Senti la gioia quando? Quando compare un evento gradevole. Ecco perché si chiamano passioni. Pasco in greco significa soffrire. Soffrire non nel senso di sofferenza, ma subire, quindi ricevere un'impressione da. La gioia in tutte le sue forme. Il piacere fino a gradi che sono inconcepibili sulla terra. Quante volte gli ha detto non ti posso dire questa cosa perché moriresti di piacere? Attenzione, ricordiamo sempre quando si parla di questa cosa, eh? Eppure i piaceri sessuali in cielo non esistono, che sulla terra sono i più violenti e i più intensi. Non dimentichiamolo mai questo. In cielo non esistono. Quindi questi sono per tutti quanti i fautori di quelli che hanno o l'idolo della sessualità o che in qualche modo cercano di volerla a tutti i costi riabilitare. In cielo non esiste. Il piacere fino a gradi che sono inconcepibili sulla terra, il desiderio con tutta la sua veemenza. Attenzione, adesso qui qualcuno si scandalizzerà. Ma siamo pure capaci di sentire, orientati com'è dovuto, l'odio, il timore e l'ira. Le tre passioni che in questo mondo dobbiamo stare molto attenti. Perché quasi sempre, quando le esercitiamo, facciamo peccato, molto spesso mortale. Perché l'odio in questo mondo noi possiamo esercitarlo soltanto nei confronti del peccato, e eventualmente dei demoni. Senza però esprimerlo, perché l'odio poi, se, cioè, noi i demoni non dobbiamo mai sfidarli o andarli a strugugliare, dobbiamo starne alla larga. Però finito questo, l'odio è finito in questo mondo, eh? Non possiamo esercitare questa passione, dobbiamo reprimerla. L'ira, passione pericolosissima, d'accordo? Pericolosissima, perché con l'ira si fanno la caterva dei peccati. Il timore dipende. La paura va vinta. Ricordiamo tante cose recentemente vissute e come la paura ha indotto le persone a fare di tutto e di più, a fare pazzie. Allora lui ribatte: vuol dire che nel cielo si soffre? Ma, risposta: ma no, no. Là non esiste la minima sofferenza, né la più piccola contrarietà. Sentiamo le passioni e le emozioni, ma senza nessun dolore. È chiaro che nello sperimentarle, i riflessi psicomotori che continuano ad essere umani e funzionano a perfezione, ci fanno venire le lacrime. Impallidire, quando uno si spaventa, no? Impallidisce. O arrossire, quando uno prova un po' di vergogna. alterare il tono della voce, noi alteriamo il tono della voce quando ci arrabbiamo un po', e persino tremare le ginocchia. Ma questo sì, non sentiamo la minima pena perché nella patria celeste non esiste nessuna insicurezza né angoscia. Domanda di Riccardo. Hai sentito l'ira in cielo? Sentite la risposta. Sì, certo. La sento quando vedo nell'aldilà i miei cari sulla terra che commettono qualche mancanza grave. Allora, quando commettiamo qualche mancanza grave, da stasera sappiamo che facciamo arrabbiare un po' i nostri cari che ci guardano dal cielo. L'ha detto Tenera Amata, non l'ho detto io, eh. Poi, liberissimi ovviamente di non credere a Tenera Amata, perché su questo presupposto abbiamo cominciato tutte le nostre conversazioni, e questi non sono dogmi di fede. Questo ciclo di catechesi è il ciclo di catechesi, chiamiamolo mistico, d'accordo? Quindi su qui siamo perfettamente liberi, d'accordo? Ovviamente esprimendo le nostre opinioni in certi termini, capite? Perché ecco, sia i messaggi troppo entusiasti che quelli troppo... Io ho visto, insomma, in giro sono pervenute considerazioni, cioè, a cui evidentemente io non risponderò mai, ma insomma, preferisco tacerle, insomma, da parte di persone che forse non stanno tanto bene con la testa. Vabbè, comunque. Non vorresti ammonirli o correggerli? Dice Tenera Amata, a riguardo i miei nipoti mi danno molti dispiaceri in cielo. E Riccardo dice, ma non vorresti animarli o correggerli? Sì, moltissimo, ma non è facile ottenere il permesso divino. Non è facile. Quando c'è qualche comunicazione di qualche anima, e vi assicuro che ci sono, da parte dell'altro mondo, è un mezzo miracolo che quest'anima ottenga il permesso di poterlo fare, perché non viene concesso facilmente. Grazie, signore, esclamai nel mio interno. Adesso sentite quello là che dice, che ne abbiamo già parlato. Per aver permesso questa meravigliosa conversazione per il mio bene spirituale tra una delle tue belle glorificate e uno dei tuoi poveri peccatori mondani. Queste sono considerazioni di Riccardo. Ringrazio il Signore, questa è una conversazione veramente edificante. Tenera amata, hai sentito l'odio nel cielo? Domanda. Secondo voi? Sì, anche. Odio tutti i reprobi dell'inferno. Allora, dobbiamo solo avere un po' di pazienza, perché i demoni e soprattutto i dannati, quando saranno dannati, saranno oggetto di odio infinito da parte nostra. E sentite che cosa dice. E se si trovasse lì qualche tuo parente, lo diresti lo stesso? Volete sapere la risposta? Ci stanno alcuni e li odio lo stesso, o di più. Ti faccio un esempio, perché mi comprenda. Che cosa sentiresti se qualche tuo parente per una cattiveria mi straziasse il volto e mi strappasse gli occhi? Risponde Riccardo, lo ammazzerei. Anche se in un primo momento lo odiassi, subito dopo te ne pentiresti, come dovrebbe fare ogni buon cristiano viatore. Ma il primo impulso sarebbe l'odio. Attenzione, come dovrebbe fare ogni buon cristiano viatore, qui dobbiamo stare attenti. Però delle volte l'odio ci parte e dobbiamo reprimerlo qui, perché tu non sai se c'è davanti un'anima dannata, non lo possiamo sapere in questo mondo. Orbene, il reprobo, quindi chi è dannato, ha offeso il nostro Dio, colui che sarà il tuo amore supremo. Ancora più gravemente, perché straziarmi la faccia e strapparmi gli occhi è cosa da poco in confronto con l'offesa che riceve l'amore dell'Altissimo da parte del peccatore impenitente e dannato. E dopo aver odiato così non te ne penti, essendo tu una cristiana glorificata? No. Perché in cielo non sono più in vigore i comandamenti terreni del Signore. Altra grande, capite lo scarto che c'è? E nessuno si stupisca di questo, eh. Noi beati siamo impeccabili, non abbiamo bisogno di leggi morali. La legge in paradiso non c'è più, perché c'è la fusione perpetua con la volontà divina. Come spiega San Tommaso, il glorificato ipso facto. Appena vede Dio diventa impeccabile, subito. Ecco perché nel giudizio particolare, l'ho spiegato nella catechesi dei novissimi, non si vede Dio con il lume di gloria, perché se tu vedi Dio con la visione beatifica, appena lo vedi, immediatamente sei beato e impeccabile, subito. Il fatto è che sulla terra l'odio è cattivo perché allontana dal creatore, ma in cielo l'odio ben orientato, cioè si odiano coloro che sono degni di odio e tu in cielo lo sai con certezza chi sono quelli che sono degni di odio, ci rende solidari con lui. Perché Dio ai dannati li odia, eh? Che è chiaro? Dunque in questa vita l'odio è sempre mal indirizzato. Ve l'ho già detto io. Non proprio. Qui ci sono pure certi tipi di odio ben indirizzato e legittimo. Tu dovresti odiare il peccato, per esempio. Il peccato possiamo odiarlo quanto. Il peccato, però, non il peccatore. E sentire pure l'ira contro la tua concupiscenza? Sì, arrabbiate. E prendi provvedimenti, soprattutto. L'ira contro la tua concupiscenza, oppure l'ira per dominare le cattive passioni. Dice, mi viene una cattiva passione? Mo te faccio vedere io. Penitenza, castigo, te lo dai da solo. Arrabbiate un po'. Quella fa bene, quella là. Lo stesso dico del timore. Timore di cosa? Di che cosa abbiamo paura noi? Lei dice, dovresti nutrire la paura di perdere per sempre la futura beatitudine. Oppure, se volete, dì a Dio che c'hai paura di non fare, di uscire anche tanto così dalla sua volontà. E non solo a dirglielo, cerca di pensarlo. Questo è un ottimo modo per indirizzare la passione della paura. Quindi capite, qui le nostre passioni hanno un ambito, specialmente queste negative, ha parlato dell'odio, dell'ira e della paura. Sono tre passioni negative queste qui, eh? Odio, ira e paura. Ma se preferisci, ritorniamo sul tema del purgatorio. A chi è stato peccatore, non è possibile godere il cielo senza una previa purificazione, sia volontaria durante la vita, sia forzata dopo la morte. Questo, stiamo in Quaresima ancora, figlioli miei cari. Che ci sta a fare la Quaresima ogni anno? La vita sul pianeta Terra è una lunga Quaresima. Quello che vivremo tra poco, che è il tempo di Pasqua, è una rappresentazione, è un prodromo, è un anticipo del paradiso. Ma sul pianeta Terra noi stiamo vivendo i nostri lunghi 40 giorni di Quaresima. Lunghi. E che si fa in Quaresima? Si prega, si fa penitenza, questo si fa. Si fanno le opere di misericordia, si fanno le elemosine, anche cospicue, d'accordo? Le altre opere di misericordia, i digiuni, le altre penitenze, le preghiere mentali, vocali, sacramenti, confessioni fatte bene per Pasqua, questo si fa in Quaresima. E mi raccomando, santificare bene la Quaresima, perché la Quaresima è una grande esercitazione per come si vive la vita terrena. Non vivrai così? Buon viaggio in purgatorio, fratello mio, dove la purificazione è forzata, non meritoria e più dolorosa. Non dimenticarlo mai. Pertanto, attenzione, è solo il dolore purifica. Purificazione volontaria durante la vita e dopo la morte. E solo il dolore purifica. Stiamo alla vigilia della settimana santa. Noi contempliamo Cristo, noi contempliamo e predichiamo Cristo crocifisso. Il dolore esiste a causa del peccato, perché il dolore, il peccato lo distrugge nella sua essenza. Gesù ha distrutto il peccato soffrendo, patendo su di sé e offrendo le sue sofferenze in espiazione dei peccati nostri al Padre. Così ha distrutto il peccato. Il dolore che arriva a noi è purificazione. Solo il dolore purifica. Pertanto ogni incontro con il nostro Signore Gesù Cristo in questo mondo porta sempre il sigillo del dolore. Oh, vedete che anche qui, no? Cioè, uno si legge tenera amata, si può fare l'illusione che, ah, che bello, è tutta gioia, è tutta gioia, è tutto paradiso dopo. Ma qui si passa per la valle del pianto, come dice un salmo. Dopo. Come quelli che pensano che non è che pensano, vaneggiano. Ah, io ho conosciuto la divina volontà, adesso basta tutte queste cose qui, non serve più a niente, non mi confesso, non faccio sacrifici, non faccio digiuni perché tanto c'è la divina volontà. È meglio che non commento, se no faccio qualche atto che rasenta l'ira non autorizzata, però, perché non è autorizzata, ecco. In questo, quando sento queste cose, però, c'è una forte tentazione, ecco. Il mistero della redenzione e la testimonianza dei martiri non hanno niente di piacevole. Gaudio spirituale, sì, non piacere, ma in mezzo a pene e tribolazioni, cioè la felicità in questo mondo non coincide con il piacere. In cielo la felicità coincide con il piacere, qui no. Perché qui siamo sotto il regno del peccato e il peccato si purifica col dolore. E se il Signore ti manda una croce, ti fa un regalo, anche se a te non sembra. Ecco, domanda. Com'è il purgatorio? Dice. Senz'altro il purgatorio non consiste in un campo di concentramento di anime umane rese indipendenti dai loro corpi. Ti ho detto che l'anima dell'uomo non si separa mai dal suo organismo integrale che è ad essa consustanziale, ma soltanto dal cadavere. La purificazione dopo la morte si passa in corpo e anima. Tanta roba questo qui. Ecco, voi sapete che quando non si sapevano queste cose, ve lo dico io, sapete la Summa Teologiae, c'erano gli autori spirituali che c'erano un problema grosso. Dice, perché nel purgatorio ci sta il fuoco. E dice, ma se un'anima va nel purgatorio, ma un'anima è spirito, come fa il fuoco a farla soffrire l'anima? E allora cominciano a fare tutta una serie di ipotesi che io anche quando l'ho letta dico, non è che ci ho capito un granché. Però purgatorio, io ci credo che ci sta, la Chiesa lo insegna, va finito, ci sta e in qualche modo soffriremo. Basta. Ma così è molto molto più semplice. La purificazione dopo la morte si passa in corpo ed anima, neppure si tratta di una purificazione intensiva e istantanea di tipo angelico, perché ciò comporterebbe un cambiamento antropologico essenziale, certo non necessario. Quindi non è una cosa intensiva e istantanea, è un tempo. L'uomo vive qua e continua a vivere nell'aldilà con la sua natura umana, tale e quale gliel'ha data il Creatore. Il purgatorio, dunque, è un luogo reale e temporale. Dov'è il purgatorio? Chiede lui. Negli spazi-tempi della quinta dimensione, i quali conservano gli atti di esistenza di tutta la vita terrena dell'uomo. È lì, in ogni spazio-tempo dove sia necessario, che occorre scontare la pena dovuta di quell'atto di esistenza peccaminoso. Affinché la giustizia divina finisca di annientare tutto quello che è rimasto ancora come debito in quegli atti immorali, ormai perdonati in quanto alla colpa e alla pena eterna. Per questo, basta che la coscienza umana si collochi in quegli stati della vita passata, che riconosca liberamente la malizia e le funeste conseguenze delle proprie mancanze volontarie, e che ripari con dolore ciò che non volle obbedire per amore. Inoltre, non essendo più legata alla coscienza, al momento presente del tempo normale della Terra, l'anima può contemplare in paratempi del passato e del futuro, attenzione, le conseguenze dei suoi apporti di malvagità al peccato del mondo. Questo è atroce, questo qui. Si sente un profondo avvilimento per aver sprecato gli spazi e i tempi della vita terrena generosamente concessi dal Creatore. È quanto mai dolorosa la purificazione dei sensi corporali. Ecco perché ci stanno le pene del senso nel purgatorio. La pena del danno è la pena del senso, si chiama tecnicamente. Qua sono proprio i sensi, la vista, l'udito, il tatto, la bocca, l'olfatto. È tremenda la tristezza per aver collaborato alla diminuzione del grado di gloria di un beato, e tu lo vedrai, se con il tuo comportamento, con quello che hai fatto, che gli hai fatto, o che l'hai scandalizzato, gli hai diminuito il grado di gloria. È spaventoso! Dio non voglia quando si è cooperato alla dannazione eterna di qualche prossimo. Pensa se in purgatorio vedrai che per colpa tua uno si è dannato. Risulta poi oltremodo penoso osservare la nostra mancata di corrispondenza all'amore divino. Oh, io adesso faccio un commento, non è finito il purgatorio, ma finiamo la prossima puntata perché ce ne sta ancora tanto da parlo ancora parecchio del purgatorio, e però dobbiamo fermarci perché qui non si possono come dire, fare velocemente queste considerazioni perché il tema è oltremodo importante. Mi segno un attimo il punto, tanto avremo poco da aspettare perché la settimana prossima è la settimana santa, quindi la catechesi di Teneramata sarà mercoledì, ovviamente non venerdì santo perché da giovedì in poi si entra in un'altra dimensione, ecco, per rimanere in tema, no? Allora, capito che succede in un purgatorio inteso in questo modo? Quindi non un campo di concentramento di anime, ma la tua vita, andarla a rivedere con gli occhi di Dio, quindi capire bene tutto il male che tu hai fatto per poterne provare dolore, ripararlo e esserne retribuito a livello di sensi, vederne le conseguenze. In te, sprechi di spazi e tempi che avresti potuto utilizzare molto meglio, e negli altri, diminuzione di gloria altrui. Dannazione e dolore che hai dato a Dio tutte le volte che hai mancato di corrispondere al sommore divino. Insomma, amici cari, mi sembra abbastanza, no? Aggiorniamo a mercoledì prossimo, che staremo in tema, perché in tema di Settimana Santa è certamente bene completare queste considerazioni che sono certamente un pochino dolorose. Ma quanto mai salutare, perché è meglio saperle adesso per evitare di incorrervi dopo quando non potremo farci più niente. Invece adesso, come abbiamo imparato questa sera, se impariamo a vincerci un po' e ad essere un pochino intelligenti, molto possiamo diminuire, o chi lo sa, per i più bravi addirittura quasi annientare, azzerare, il tempo della sosta di purificazione purgatoria. Perché, come ha detto Teneramata, e concludo, o lo farai forzatamente in purgatorio o lo fai volontariamente in questa terra. A noi la scelta. Alla prossima, amici, Dio vi benedica e la Madonna vi protegga. Carissimi amici e amiche, bentornati. Siamo a una nuova puntata del ciclo di catechesi Il peccato originale, l'origine di ogni male. Siamo già